Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Agosto e settembre del 1821. La Chiesa contro la carboneria, arriva una bolla di scomunica da Pio VII. Grecia, massacri degli indipendentisti in Navarino e Tripoli conquistate in un bagno di sangue. È rivolta in tutto il Sud America, Bolivar alla presidenza della Repubblica di Gran Colombia. Paura in Irlanda per una nuova carestia, disastroso il raccolto delle patate. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Mentre a Napoli vanno avanti i processi contro i protagonisti della rivolta del 1820, mentre nel Regno di Sardegna ci si prepara all'arrivo del re Carlo Felice e si attende una nuova ondata di repressione antiliberale, arriva dalla Chiesa l'attacco più duro contro la carboneria. I precedenti pontefici avevano già condannato la massoneria, oggi Pio VII associa i carbonari ai massoni, nonostante i primi si siano sempre professati cristiani. Sono scomunicati con una bolla intitolata Ecclesiam a Jesu. Eccone uno dei passaggi centrali. A questo punto occorre ricordare una società nata di recente e diffusa in lungo e in largo per l'Italia e in altre regioni. Per quanto sia divisa in numerose sette e per quanto assuma talvolta denominazioni diverse e distinte tra loro, in ragione della loro varietà, tuttavia essa è una sola di fatto nella comunanza delle dottrine e dei delitti e nel patto che fu stabilito. Essa viene chiamata solitamente dei Carbonari. Costoro simulano un singolare rispetto e un certo straordinario zelo verso la religione cattolica e verso la persona e l'insegnamento di Gesù Cristo nostro Salvatore, che talvolta osano sacrilegamente chiamare rettore e grande maestro della loro società. Ma questi discorsi, che sembrano ammorbiditi con l'olio, non sono altro che dardi scoccati con più sicurezza da uomini astuti per ferire i meno cauti. Quegli uomini si presentano in vesti di agnello, ma nell'intimo sono lupi rapaci. Ci spostiamo in Grecia, ora, dove proseguono le battaglie per l'indipendenza. Due di queste si sono concluse in un bagno di sangue. A Navarino, innanzitutto, dove i ribelli hanno massacrato 3.000 civili turchi, uccidendo, hanno raccontato testimoni, anche neonati con le loro madri. Solo in 160 sono riusciti a fuggire. Poi a Tripoli, nel Peloponneso. Qui, fra musulmani ed ebrei, nei tre giorni successivi alla presa della città, sono state eliminate 8.000 persone tra atrocità difficili da raccontare, compreso l'assassinio con metodi brutali di donne incinte. Oramai, intanto, la rivolta contro gli spagnoli nel sud del continente americano ha un leader riconosciuto. Si chiama Simón Bolívar e, dopo una serie di vittorie, ha assunto la presidenza di un territorio enorme nella parte nord e appena a sud di Panama. Nel frattempo, a 11 anni dalla dichiarazione di indipendenza messicana, questa è stata riconosciuta il 27 settembre. Un nuovo raccolto drammatico per l'Irlanda. Il 1822 si preannuncia come un altro anno di carestia per questa zona del Regno Unito, dopo quella che già colpì questi territori, come tutto il resto d'Europa, tra il 16 e il 17 e a cui seguì un'epidemia di tifo. Il problema consiste nel fatto che gran parte del nutrimento degli irlandesi arriva dalle patate, che sono difficili da conservare per l'anno successivo e sono più soggette al fallimento del raccolto. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento, curata da Simone Spezia, che l'ha condotta in studio, e Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo prendendo penna e calamaio elettronici, gazzettino@radio24.it. Siamo anche su Facebook e abbiamo un blog. È tutto.